GR24, il sole 24 ore. Maltempo, crolla un ponte a Grosseto, muoiono 3 persone, allerta per le piene di Arno e Tevere. Quasi 2 milioni di persone per il confronto sulle primarie in TV del Partito Democratico, record di ascolti per Sky e alla fine vince il format con risposte da 1 minuto e 30. 4.000 esuberi nella pubblica amministrazione, lo comunica il ministro Patroni Griffi ai sindacati. Lazio ha arrestato l'ex capogruppo dell'Italia dei Valori, avrebbe sottratto 700.000 euro al partito. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione GR24, ben ritrovati anche questa edizione. La apriamo con gli aggiornamenti sulla situazione del maltempo. Le buone notizie in arrivo sono che dovrebbe smettere di piovere, però per il momento quello che si fa è la conta dei danni e delle vittime. Valentina Furlanetto. Sì, buongiorno Alessio, buongiorno agli ascoltatori. Come dicevi, è migliorata la situazione in Toscana, a Grosseto, dove ha smesso appunto di piovere, però nel sud della provincia è ancora isolata, ad esempio, Albinia. Su richiesta della prefettura della zona è intervenuto anche l'esercito. Il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha sorvolato questa mattina le zone alluvionate in elicottero per coordinare gli interventi per l'emergenza e anche appunto per valutare i danni. Sentiamo il sindaco di Grosseto, Emilio Bonifazzi. La situazione, diciamo, è abbastanza critica a Albinia, a Orbetello, lì c'è il problema più grosso. La situazione a Grosseto è una situazione che sta migliorando. La nostra preoccupazione naturalmente era quella del fiume Ombrone, soprattutto per quanto riguarda gli affluenti. Poi, insomma, tutti gli altri problemi li abbiamo risolti, anche l'ospedale siamo riusciti a risolvere, c'era il problema dell'energia elettrica, dei gruppi elettrogeni, dei malati che sono in rianimazione, della dialisi, insomma tutto poi è proseguito nel modo migliore. E i problemi maggiori sono nella zona sud, Albinia, dove fra l'altro è irraggiungibile via Aurelia e via ferrovia. E stamattina si è saputo che 3 dipendenti dell'Enel sono morti ieri sera nel Grossetano dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è precipitata in una voragine che si era aperta alla fine del ponte sull'Albegna nel comune di Manciano. Tornavano queste persone a casa dopo essere state a Roma per un corso. Una è una donna. In provincia di Massa Carrara intanto sono 40 gli sfollati ospitati negli alberghi. Allerta anche nel Lazio. In questi minuti è prevista la piena del Tevere tra Umbria e Lazio, una terra a rischio comunque quella italiana, anche a causa dei condoni edilizi. Allora sentiamo perché dal geologo Mario Tozzi. Già quando viene formulata come ipotesi, consente a tutti di costruire non importa dove, non importa come, perché sanno che quella costruzione verrà sanata. E spesso viene fatto in luoghi di pericolo, perché l'Italia è una regione che c'è un rischio naturale elevatissimo, il 50% è quello idrogeologico, ma c'è pure quello sismico e vulcanico. Dunque complessivamente con il condono si espongono al rischio, si crea il rischio. In aree in cui prima non c'era, è veramente dannosissimo. Noi abbiamo avuto 3 condoni edilizi in Italia, hanno portato tutte e 3 qualcosa come 400.000 nuove costruzioni, la gran parte delle quali sono in aree di rischio, non sono controllate e sono state sanate, cioè oggi non le possiamo più abbattere. Questo ha creato il rischio ed è stato responsabile in ultima analisi dei morti e dei danni, bisogna dirlo molto chiaramente. E adesso l'ANSA proprio adesso ha battuto i nomi di queste persone che sono morte vittime del terremoto, i dipendenti dell'Enel che sono morti nella loro auto. Si tratta di Paolo Bardelloni, 59 anni, Antonella Vanni, 48, e Maurizio Stella, 47 anni. E per ora è tutto. Grazie a Valentina Furlanetto e insomma, come dicevamo, le buone notizie sono che c'è un miglioramento delle condizioni del tempo che è previsto già da oggi pomeriggio, stop alle piogge, qualche rovescio ci sarà ancora domani sulla Sicilia, la Sardegna e poi giovedì anche sul sud Italia. E paura intanto nei comuni dell'Aspromonte per una scossa di terremoto di magnitudo 4.4. Il sisma è stato avvertito alle 8.06 di questa mattina dalla popolazione della provincia di Reggio Calabria, tra Sant'Eufemia, Sinopoli e Bagnara Calabra. Fortunatamente però non ci sono stati danni a persone o cose. Ieri sera confronto in televisione su Sky TG24 tra i 5 candidati alle primarie del Partito Democratico, record di ascolti per la TV satellitare, quasi 2 milioni di persone, c'era anche il collegamento su cielo, sul digitale terrestre. Allora ripercorriamo, risentiamo un po' com'è andata. Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Intanto molte critiche questa mattina al confronto delle primarie di centro-sinistra su Sky, critiche ovviamente da parte del centro-destra, PDL in primis, ma intanto, come avete detto voi, da studio e boom di ascolti su Sky che arriva addirittura a uno share del 6,22%, anche se la discussione è stata pacata e chiusa da tempi serratissimi. Per i bookmakers a vincere la sfida TV sarebbe stato il segretario PD Pierluigi Bersani, si sarebbe posizionato al 33% contro il 31% dello sfidante sindaco di Firenze Matteo Renzi. L'unico scontro vero e proprio è stato quello sulle alleanze, per Bersani sia Casini ai moderati, contrari Renzi e Vendola. E il leader di SEL è stato intervistato proprio questa mattina da Radio 24, nega di voler fare il ministro, mentre è per la legalizzazione delle droghe leggere. Molte le critiche da parte del PDL, come dicevamo, per Altero Matteoli si è trattato della solita sinistra di sempre che annoia anche i suoi elettori, il PDL per Matteoli può vincere le elezioni, però anche lo stesso partito dell'ex premier si prepara alla sfida alle primarie, ricordiamo che il favorito in questo caso è il segretario Angelino Alfano, mentre tra i candidati ci sono Giampaolo Samorì che boccia il dibattito TV, Guido Crosetto che precisa la sua non è una candidatura contro Alfano ma per un dibattito interno al partito e la fedelissima berlusconiana Daniela Santanchè. Come sappiamo anche qui Sky ha chiesto se i rappresentanti del PDL vogliono fare il dibattito in TV, intanto però l'eco è su quello del PD e delle primarie del centro-sinistra. Per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie Elisabetta, il critico TV di Repubblica Antonio Di Pollina al microfono di Maria Luisa Pezzali commenta il format all'americana, lontano anni luce dai soliti talk show. Non è andata in onda una cosa delle solite in cui si può dire che un candidato nel corso di uno scontro o di un match accesissimo con qualcun altro ha prevalso, era un'altra cosa che non si è mai vista. Poi si può dire che Renzi ha usato molto meglio lo spazio a disposizione ed era decisamente più a suo agio in questa modernità televisiva da dibattito, ma si può benissimo anche dire che Bersani era strepitoso per quanto riguarda il suo pubblico di riferimento, quelli che sono già i suoi sostenitori, per la plomb da un certo punto di vista che aveva, un po' scocciato, un po' no, un po' a pensare ma che ci faccio qui o cosa mi tocca fare nella vita, ed era quello che probabilmente pensavano anche i suoi sostenitori. Direi che i sostenitori di ognuno dei candidati sono rimasti assolutamente soddisfatti e sono convinti che abbia vinto il proprio. Il graffio di Dario Ceccarelli. Io sono uno di quelli che ha creduto in lei. Sono stato deluso. Io non le ho mai creduto. Ingegner Marchionne, con tutto il rispetto, le sentenze dei tribunali, bisogna rispettarle. Guardi, ingegnere, che lei non sta parlando con uno a cui si può raccontare di tutto. Una grande azienda come la Fiat ha avuto tanto dal paese e non è che può pensare che se ne va come se nulla fosse. La Fiat, rispetto all'Europa, sta scendendo dal punto di vista delle posizioni nel mercato automobilistico europeo. Oggi è il giorno della gentilezza e quindi anche il graffio ringrazia il ministro Fornero e l'ingegner Marchionne, capaci nell'incredibile impresa di mettere d'accordo su qualcosa i 5 candidati alle primarie del Partito Democratico. Grazie. E così con il graffio di Dario Ceccarelli chiudiamo questa pagina dedicata alle primarie del Partito Democratico con il confronto su Sky. Torneremo a parlarne in Italia in controluce alle 13.30. Sono 4.028 gli esuberi tra gli impiegati della pubblica amministrazione a livello centrale. A comunicarlo oggi il ministro della funzione pubblica davanti ai sindacati. Intanto prosegue il lavoro del governo sulla legge di stabilità. Il lavoro del governo e del Parlamento, facciamo il punto con Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, superano dunque le 4.000 unità gli esuberi quantificati dal ministro Patroni Griffi, nello specifico si tratta di personale non dirigenziale che risulta di fatto in eccesso dopo la revisione delle piante organiche di 50 amministrazioni centrali, delle 4.028 persone individuate oltre 3.000 fanno riferimento ai soli ministeri, il risparmio atteso supera i 300 milioni di euro. Il piano di ottimizzazione del personale, è bene ricordarlo, non riguarda al momento i ministeri della giustizia, dell'interno e degli esteri oltre ad INPS ed enti parco. Per questi ci sarà un ulteriore provvedimento. Altro capitolo, la legge di stabilità. Incidente di percorso questa mattina per il governo: è passato in commissione bilancio un subemendamento sugli esodati nonostante il parere contrario di Palazzo Chigi. Secondo i relatori di maggioranza il capitolo esodati è stato comunque risolto ieri con l'intesa con il ministro Grilli, che stabilizza la platea e prevede un meccanismo di copertura grazie all'eventuale stop all'indicizzazione delle pensioni più alte. Si attende per il pomeriggio infine l'emendamento sulla parte fiscale. E da Roma è tutto. Grazie anche a Vincenzo Miglietta. Adesso è il momento di tirare qualche riflessione sul momento politico con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. In Italia l'opinione pubblica è pronta per le riforme, dice Mario Monti in un'intervista al francese Figaro, purché aggiunge queste riforme siano fatte all'inizio della legislatura, quando il loro costo sociale è più sostenibile per chi governa. Non è la prima volta che il Presidente del Consiglio delinea il percorso della prossima legislatura e nelle sue parole c'è sempre questa insistenza nel dividere le forze europeiste che dovranno costituire la base del prossimo governo dalle forze populiste ed euroscettiche che sono avversarie. Non è tanto una candidatura alla guida dell'esecutivo post elezioni, usciamo da questo ritornello. Tuttavia è l'indicazione di una piattaforma politica, l'unica praticabile se si vuole contribuire alla democrazia europea e non alla disgregazione dell'Unione. Il punto è che è se da qui al giorno del voto prenderà forma nel cuore degli italiani una maggioranza più o meno allargata in grado di muoversi con questi criteri, oppure se prevarrà il volto dell'anti-Europa. È una sfida ed è già in corso. E siamo alla giornata dal punto di vista economico. Cominciamo con un dato non negativo una volta tanto. Il tasso di disoccupazione nell'area OCSE è calato di 0,1 punti al 7,9% a settembre rispetto ad agosto. Le buone notizie finiscono qua, perché nell'area euro invece la disoccupazione è cresciuta per il 16° mese consecutivo all'11,6% e in Italia anche qua è salita dal 10,6% al 10,8%. E l'Italia ha collocato oggi tutti i suoi titoli bot con scadenza ad un anno nell'asta che era prevista proprio per oggi. Tassi in discesa, dunque una buona notizia. Facciamo il punto anche sulla situazione sui mercati finanziari con Valeria De Rosa. Sì, ben ritrovato Alessio a te e ai nostri ascoltatori. Allora, asta non solo per l'Italia, che comunque, come dicevi tu, è andata bene, piuttosto bene, bene la domanda, pari a 1,76 volte l'offerta. Un'asta molto importante anche per la Grecia oggi, che ha collocato titoli a 1 e a 3 mesi per circa 4 miliardi. Ricordiamo che questa era un'asta fondamentale per la Grecia, perché tra qualche giorno e per la precisione il 16 di novembre scadranno titoli a breve per 5 miliardi e la Grecia rischiava davvero questa volta il default. Ovviamente le banche greche sono state sostenute e aiutate dalla Banca Centrale Europea per ovviamente intervenire sul mercato e acquistare i titoli di Atene. Per quel che riguarda l'andamento dei mercati, limano leggermente le perdite i mercati del vecchio continente. Londra cede uno 0,57%, Francoforte lo 0,66%, Parigi cede uno 0,27% e sicuramente i timori che riguardano la Grecia ma anche il debito americano pesano molto sull'andamento dei mercati in Europa. Milano invece è riuscita a invertire la rotta, più 0,35% in questo momento il FTSE MIB. Il miglior titolo è Intesa San Paolo, che guadagna oltre 3 punti percentuali. Intesa ha da poco comunicato al mercato i dati relativi ai suoi conti, che sono sicuramente in diminuzione rispetto allo scorso anno, ma tant'è, evidentemente piacciono al mercato in questo momento. Bene anche Unicredit, che guadagna il 2,13%, Parmalat l'1,27%. In fondo al listino invece ritroviamo Enel Green Power, che cede il 3,5% circa, ma è tutto il settore delle utilities che sta soffrendo oggi molto in Europa. In leggero miglioramento il cambio euro su dollaro, in leggero recupero 1,2711 in questo istante, ed è tutto. Grazie Valeria. Ma ripartiamo, abbiamo appena sentito la giornata in borsa con i dati economici di giornata e l'asta positiva dei titoli di Stato italiani. Andiamo invece a vedere qual è la situazione per quanto riguarda la Grecia con le dichiarazioni del ministro delle Finanze tedesco possibilista su una dilazione dei tempi per il rientro della Grecia. Sergio Nava, buongiorno. Buongiorno, come avete appena ascoltato si allontana per il momento il rischio di un default imminente per Atene dopo che il tesoro ellenico ha raccolto questa mattina sui mercati 4 miliardi in titoli di Stato a breve termine. E intanto, il giorno dopo, l'Eurogruppo, che ha inviato di una settimana ogni decisione sullo sblocco definitivo sulla tranche da 31 miliardi e mezzo in nuovi prestiti, prevale un clima di ottimismo all'Ecofin tra i ministri finanziari. Pensiamo che un accordo sulla Grecia sia auspicabile e possibile, che ci arriveremo martedì, così il titolare delle finanze francese Pierre Moscovici, mentre l'omologo tedesco Wolfgang Schäuble ha aperto alla concessione di più tempo per ridurre il debito ellenico. Ed è proprio sui tempi di proroga per la riduzione del debito greco al 120% del PIL che è andata in scena ieri sera a Bruxelles una clamorosa spaccatura tra Eurogruppo ed FMI. L'Europa è favorevole a spostare la scadenza al 2022 e il fondo non intende andare oltre il 2020. Dietro a una semplice apparentemente questione di date si celano sostanzialmente problemi di soldi. Il piano dell'FMI potrebbe infatti implicare perdite nette per i creditori della Grecia, che dovrebbero rinunciare a parte dei soldi prestati. Quello dell'Europa, male che vada, implicherà semplicemente una riduzione dei tassi di interesse su questi stessi prestiti. Senza un accordo tra i due blocchi su quale piano implementare, si rischia un nuovo fatale blocco della tranche di prestiti internazionali alla Grecia. Sempre a proposito di debito, quello italiano a settembre ha raggiunto un nuovo record a 1.995,1 miliardi di euro e stasera si parlerà anche di Italia nella cruciale riunione sul bilancio europeo 2013. Si spera in un accordo complessivo che sblocchi finalmente i 670 milioni per i terremotati dell'Emilia. È tutto. Grazie anche a Sergio Nava. E adesso parliamo del nuovo capitolo negli scandali alla Regione Lazio, perché è stato arrestato questa mattina Vincenzo Maruccio, ex capogruppo dell'Italia dei Valori in Consiglio regionale. Sentiamo. Ecco costui. Sono Vincenzo Maruccio, 31 anni e origini calabresi. Così si presentava l'ex capogruppo dell'Italia dei Valori alla Regione Lazio in un video autoprodotto, arrestato questa mattina dal nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza su ordine del GIP del Tribunale di Roma. L'accusa è di aver sottratto dalle casse dell'Italia dei Valori e girato sui suoi conti personali 781.000 euro tra l'aprile 2011 e il giugno 2012. Sistematica spoliazione delle risorse pubbliche e attività predatoria dei fondi destinati al suo partito, così si legge nell'ordinanza. Ma c'è di più, i magistrati parlano anche di videogiochi e slot machine. Il giovane avvocato di Vibo Valencia sembra infatti che avesse il vizio del gioco. Ecco perché sospetta la finanza e il suo bisogno spasmodico di contanti, nonostante lo stipendio da consigliere e le collaborazioni da avvocato. Gli uomini delle Fiamme Gialle, che hanno messo a setaccio i suoi conti degli ultimi due anni, hanno trovato anche alcuni assegni cui beneficiare sono appunto gestori di sale gioco e bar. Maruccio è stato arrestato per rischio di inquinamento delle prove, misura che avrà la durata di 30 giorni con termine rinnovabile per esigenze istruttorie. Verrà ascoltato venerdì presso il carcere di Regina Coeli dal GIP Flavia Costantini. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E 40 arresti tra Vibo Valencia, Cosenza e Como, 4 imprese della Locride sequestrate, il bilancio di una operazione condotta dai carabinieri di Reggio Calabria contro l'andrangheta. Con obiettivo il controllo del territorio attraverso la gestione delle attività economiche, passando per il condizionamento della politica, perché avere le persone giuste nei posti chiave aiuta a pilotare gli appalti e a portare soldi nelle casse dell'organizzazione, che si arricchiva anche con l'usura. L'ultima operazione contro l'andrangheta ha portato a 39 arresti tra la Locride e Como. La lista dei reati contestati è lunghissima e va dall'estorsione all'illecita concorrenza negli appalti, dalla truffa all'esercizio abusivo del credito, fino all'intestazione fittizia di beni con l'aggravante delle modalità mafiose e della transnazionalità. Sì, perché l'inchiesta della DDA di Reggio Calabria conferma l'organizzazione verticistica dell'andrangheta e i suoi interessi anche in Australia, Canada e Sud America, ma fa emergere anche una novità. Per difendersi dagli attacchi della giustizia, le cosche avevano creato un direttorio di cui facevano parte i capi di 5 famiglie della Locride. Avevano il compito di preservare e trasmettere i valori della criminalità reggina. Nei 5 anni di indagine è emerso che è stato condizionato il voto per l'elezione del presidente della comunità montana e praticato il controllo di imprese edili e movimento terra, oltre al controllo del taglio boschivo, tanto che in questo settore sono state sequestrate 4 imprese. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora la cronaca: arrestato oggi a Roma dalla Digos un ultras romanista, e si tratta di un giovane romano di 23 anni che domenica scorsa davanti allo Stadio Olimpico, durante i momenti di tensione poco prima del derby Roma-Lazio, avrebbe lanciato una Molotov contro un cordone delle forze dell'ordine. E adesso un appuntamento che riguarda la letteratura. È partito ieri da Milano il tour italiano dello scrittore francese Daniel Pennac, autore della saga dei Malossen. Adesso presenta un nuovo romanzo, Storia di un corpo, pubblicato da Feltrinelli. Ecco come Pennac ha parlato di questo romanzo alla nostra Alessandra Tedesco. C'est plutôt l'envie de raconter l'histoire d'un corps à travers. Più che altro è la voglia di raccontare la storia di un corpo attraverso l'attenzione che quest'uomo ha nei confronti del proprio fisico. Ed è un argomento molto interessante perché il soggetto è allo stesso tempo anche l'oggetto. Per questo è stato molto interessante scrivere questo libro. Ed è anche molto comodo perché io sono l'oggetto. In questo libro il protagonista è un uomo, quindi parla di pulsioni tipicamente maschili, anche pulsioni sessuali. Secondo lei c'è una differenza nel leggere questo libro da parte di un uomo e da parte di una donna? C'est la question qu'il se pose lui-même, puisqu'il sì, effettivamente anche il protagonista del romanzo si è fatto questa domanda. Arrivato a 50 anni dice che se il suo diario dovesse essere pubblicato, lui avrebbe voglia di leggere il diario di una donna. Il personaggio si è fatto la mia stessa domanda. Ora tocca a lei mettersi a scrivere un diario dal punto di vista femminile. Ed è tutto per questa edizione. Alessio Maurizio in studio, Matteo Comes in regia. Vi augurano buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola. Giornata di entusiasmo al Festival Internazionale del Film di Roma per i fan e soprattutto le fan di Twilight. Oggi l'ultimo episodio della versione cinematografica della saga dei vampiri che ha conquistato i ragazzi. Domani invece sarà il giorno di Sylvester Stallone, che presenterà Bullet to the Head di Walter Hill. Ieri Sly ha incontrato i ragazzi della periferia romana al teatro di Tor Bella Monaca e ha fatto visita al Campidoglio, dove ha ricevuto la Lupa Capitolina. La metterò, ha detto, al posto dell'Oscar. Tra i film presentati a Roma anche Le Guetteur, noir che Michele Placido ha girato in Francia. Placido ha criticato autori e produttori italiani. Farei un film su Dell'Utri, ma ha detto si autocensurano e dichiara in Francia è tutta un'altra cosa. È il dramma del nostro cinema. Non c'è più una lira, ragazzi. Nessuno più parla di questo. Purtroppo anche il governo Monti ha fatto poco e niente per tutti noi. Ce ne occupiamo soltanto il periodo adesso dei festival. E poi alla fine saremo costretti a vedere un pubblico inerte che riempie le sale per la commedia e abbandona il cinema autoriale, che in Francia è ancora un qualcosa di importante. Per esempio anche adesso il nuovo presidente Hollande non è che ha fatto i tagli sulla cultura, ha fatto più tasse a chi ha più soldi per finanziare la cultura. Sarkozy fece la stessa cosa, cambiano i presidenti, questo è il problema nostro, destra, sinistra, ammazziamoci, loro si confrontano sul piano culturale. Nel cast francesi quali Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz, Olivier Gourmet, ma anche i nostri Luca Argentero e Violante Placido, che ha amato lavorare in Francia. La Francia non regala niente a nessuno, però ripagano molto se c'è del talento, se comunque c'è la voglia di crescere, di mettersi in gioco. Comunque non sono chiusi, sono aperti, e in più comunque è una patria dove la cultura è in tutti i campi, non solo nel cinema, è estremamente rispettata e insomma è una professione, gli si dà un valore e quindi chi ha voglia di fare questo mestiere e si mette in gioco e lavora sodo può essere ripagato. Restiamo a Roma, ma con il teatro. Barba, Capizzi e Mandolino è il nuovo spettacolo di Massimo Venturiello, in scena ancora questa settimana al Vittoria. Un monologo con musica scritto da Gianni Clementi e con la regia proprio di Venturiello. Sentiamolo ai microfoni di Elisabetta Fiorito. Parla della barberia siciliana e più propriamente della musica da barba che nasceva proprio nella barberia, nei saloni da barba, e che in Italia ha avuto una massima diffusione negli anni 50, veniva anche dall'America. dove praticamente si riunivano il barbiere, solitamente in grado di suonare il mandolino insieme ad altre persone del posto, specialmente nel sud, nel sud d'Italia, ma non solo, e che poteva essere l'avvocato, il meccanico, anche il contadino, insomma, che sapevano suonare chitarra, fisarmonica, questi strumenti ereditati, cioè non erano dei musicisti da studio, diciamo, ma musicisti che avevano appreso la musica così, imitando il padre. Avevano peraltro oralmente conosciuto pezzi e quindi messi suonati così, con una quasi un, tra virgolette, un dilettantismo. In realtà erano anche molto molto bravi. E per il GR Spettacoli è tutto. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.